chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane, di Rosita Celentano e Angelo Vaira. E che sia dalla prospettiva del cane, che sicuramente è una prospettiva migliore amore, della Yuffie nostra. Che oggi è dal papà invece della mamma. Allora dovete sapere che Yuffie qua viaggia sul nostro bancone, il cagnolino di Rosita Celentano, ma evidentemente sempre più il mio. Ma finisci di stamattina... chiamarmi sempre per cognome come se fosse un'estranea? Vabbè, ma siamo mica parenti. Come dice la Maionchi, Mara Maionchi, che io saluto e adoro. Ciao Mara, sto ancora aspettando di fare una... Anche lei una... chiama per cognome una... il marito, sì, Salerno. E quando gli ho chiesto, ma scusa, perché lo chiami per cognome? Mi fa, siamo mica parenti noi. Quindi un genio. Sto ancora aspettando di fare una sfida a burraco con Mara, che sembra che vinca sempre, vinca tutti quanti. Buona domenica! Buona domenica a tutti! Allora, abbiamo letto tutte le vostre mail, continuiamo a leggerle, vi rispondiamo. Appena possiamo vi chiamiamo, vi coinvolgiamo anche in radio. Vi ricordo l'indirizzo, che è chiedimi se sono felice, @radio24.it. Oggi parleremo di cervello del cane, di vittorie animaliste, avremo con noi anche dei VIPs. Vips. Ma la prima cosa che io vorrei fare oggi è cominciare con un insegnamento, aforismi da parte dei cani saggi, no? Quindi da questo bel libro che a volte abbiamo citato, si chiama Le cose più importanti che il mio cane mi ha insegnato, di Cinzia Copland, edizioni Tea, ci sono delle massime associate a delle bellissime fotografie, no? Quindi vedo un cane in spiaggia che scava, questa è la fotografia, e accanto si dice: continua a scavare finché non trovi ciò che stai cercando. Bellissimo. È molto bella. Tra l'altro mi risulta che c'è un poeta, un cantante che tu ami molto. Senti che cosa dice. Sarebbe giustificazione per non farlo più. Per non farlo più. Ora. Non c'è montagna più alta di quella che non scalerò. Non c'è scommessa più persa di quella che non giocherò. Lorenzo è indiscutibilmente bravo. È un poeta. È il mio cantante preferito. Invece Rosita ogni volta dice: vabbè, ma io non lo so, perché probabilmente tu ci sei stata assieme. Insomma, e quindi. O no? È per quello. Ma no, ma intanto eravamo giovanissimi, si parla di più di 25 anni fa. Figurati. E all'epoca era Gimme Five, che a me divertiva peraltro moltissimo. No, lui è bravo, una persona che si prepara molto. Gli piace sapere, quindi legge tanto. Quando lo conoscevo io non suonava nessuno strumento, adesso ne suona tantissimi: la chitarra, la tromba, la batteria. Quindi è un grande poeta, oltre che un grande cantante, a mio parere. Insomma, a me piace molto. E insomma, è attinente quello che lui dice in questa canzone a quello che ci insegnano i cani da questo punto di vista, no? Continua a scavare, no? Scala quella montagna, se no, quella che non scali, quella che è la più alta. Sì. E allora, detto questo, poi io passerei. Io volevo adesso, non so quanto tempo abbiamo, Peter, perché c'è qualche minuto, tre minuti. Speriamo di riuscire a farci in 3 minuti, perché io ho trovato un articolo che mi è piaciuto molto sul Corriere.it, nella pagina quella degli animali, scritto da Costanza Rizzacasa d'Orsogna. È un articolo del 21/9/2016, quindi attuale, che parla animali e senza tetto, storia di un legame d'amore incondizionato. Perché negli Stati Uniti c'è tra il 5 e il 25% dei senza tetto vive con un animale. Con un cane. Però giustamente in questo articolo viene spiegato che ci sono due tipi di senza tetto che vivono con i cani. Purtroppo un tipo è che, come quello descritto nel film The Millionaire, l'animale diventa solamente un mezzo per raccattare più soldi, perché le persone vengono spesso maltrattati, vengono addirittura mutilati, come fanno addirittura in India con i bambini. Sì, perché se sono mutilati, denutriti e stanno male, c'è più compassione, la gente dà più soldi. Fra l'altro capisci che loro non si occupano del cane, perché non li vedi fare una carezza, nella loro ciotola non c'è né acqua né cibo, nessuno chiede se sono felici. No, a questa gente nessuno, infatti, si chiede. La giornalista di fatti suggerisce, nessuno si chiede, se il cane è felice, non gli frega nulla. Ma questi come può... Però vedi, quando tu racconti di queste storie si capisce perfettamente che il valore di queste persone, il valore morale, il livello morale di queste persone è molto basso. ed è associato al maltrattamento degli animali. Ma difatti la giornalista giustamente dice a questa gente: quando vedi il cane trattato così non bisogna dare soldi, ma piuttosto andare a fare la spesa, prendere dei croccantini, una ciotola con l'acqua e sperare di dargli. Alcuni si arrabbiano pure, mentre... Bene, questo è un ottimo suggerimento. Quindi se vedete un cane denutrito e via dicendo, a parte che poi possiamo fare delle denunce, come ne abbiamo fatte anche noi in radio l'anno scorso. Abbiamo parlato con una persona che si è interessata proprio di fare denunce e sequestrare un cane maltrattato per fare accattonaggio. Ma se vi capita, piuttosto che dare soldi perché vi dispiace per il cane, andate a comprare qualcosa da mangiare, una ciotola e dell'acqua. Dategli di lì per lì. Il problema è che, sai, glielo danno molto in tanto. Bisognerebbe denunciare e toglierli. C'è Olimpia, questa mia amica di Facebook su Roma, che è riuscita a strappare una cagnolina meravigliosa che era talmente denutrita che non alzava più le zampe di dietro e si trascinava. C'aveva solamente 3 mesi e purtroppo questi qui erano anche 2 tossicodipendenti. Quindi la usavano, e una volta sparita, che non hanno avuto più lei, ha saputo che stavano andando in giro a cercare di rubare qualche altro cucciolo randagio per usarlo in questo modo. Ma invece c'è un'altra categoria di senza tetto. C'è un'altra categoria meravigliosa, che però è quella forse più frequente. E abbiamo 30 secondi solamente. Allora ragazzi, facciamo così. Siccome la seconda categoria è fantastica, ci sono un sacco di cose tu belle. Quindi dici, non anticipo ancora. Allora, c'è una seconda categoria di senza tetto che invece stabilisce un legame d'amore. Esatto, molto speciale. E vedremo fra poco quant'è. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Senti, vai, da te ti sono andati di traverso i figotti, Non dire scusa. Stamattina non ne ho preso neanche una. C'è Peter che sta ridendo in regia, perché anche tu fai colazione con quelli a volte, no? Vogliamo cominciare? Ecco. Allora, parliamo di cos'è. Stavamo parlando appunto degli animali e i senza tetto, storia di un legame d'amore incondizionato. Allora, abbiamo parlato di una categoria pessima, cioè di quelli che sfruttano gli animali per accattonare, denutando, eccetera, mentre c'è un'altra categoria di senza tetto che pare sviluppi un legame d'amore con questi animali. Sì, perché il rapporto che vive per strada un senza tetto e gli animali invece può essere commovente e profondo, e può essere, in realtà, dice la giornalista di questo articolo, la loro salvezza, perché questi cani sono strappati sicuramente a una morte certa, magari abbandonati per strada, o canili chissà in che condizioni. Se tu vedi questi qui che hanno i senza tetto, che hanno l'animale abbracciato, che gli fanno le cose, che li baciano, che vedi la ciotola loro con l'acqua sempre fresca, fra l'altro poi si abbracciano, e dice che spesso li vedi addormentati vicini alla strada abbracciati, difatti c'è una foto bellissima sul per l'elemosina, ci sarà sempre un berrettino e vicino la ciotola dell'acqua, e ci sarà sempre un po' di cibo, quindi da lì capisci che questi qui invece li trattano bene. Pensa che negli Stati Uniti ma è nata lo sai che uno dei miei sogni è fare e vagabondare con il cane, cioè tipo fare un viaggio a piedi da qui verso Oriente con un cane. Allora c'è un film americano famosissimo di cui non ricordo il titolo, se non ricordo male anche in bianco e nero, che è la storia di un milionario che vuole capire che la vita di un clochard, di un senza tetto, e quindi si nasconde i documenti veri nella suola della scarpa, perché dice metti succede qualcosa, e vuole vivere e capire proprio loro. Non mi ricordo se perché lui era uno scrittore, come si chiama cosa. Il film Il Milionario? Non mi ricordo. The Millionaire è quello lì del ragazzino indiano che gioca altro bel film, ma non c'entra nulla. Senti, dicevo, negli Stati Uniti è nata un'associazione di veterinari e volontari che nutre e fornisce cure di emergenza esclusivamente agli animali degli homeless. Grandi! Che si stima che tra il 5 e il 25% dei senza tetto d'America vive con un animale. Quindi, fra l'altro, c'è questa Leslie Irvine, docente di sociologia dell'Università del Colorado, che dice che il legame emotivo e psicologico tra homeless e animali, lei difatti ha scritto un libro che si chiama My Dog Always Eats First, il mio cane si mangia sempre per primo, documenta come il livello di attaccamento dell'uomo in molte di queste situazioni è spesso superiore rispetto ad animali che vivono in casa. Molti homeless sono convinti che nella brutalità della propria condizione il proprio animale gli abbia salvato la vita, e senza di esso vivere non avrebbe Io ti dico che la maggior parte dei cani dei senza tetto che hanno questo tipo di legame sono più felici dei cani che vivono in casa. E difatti, come dice lei, addirittura, come vedo spessissimo, il cane in giardino. Cioè, che io non capisco, perché ne ho visto uno forse qualche giorno fa, era un Labrador Chocolate dietro un recinto lasciato da solo in giardino. E io mi chiedo perché uno adotti un cane in quel caso. Cioè, perché adotti un cane se tu lo devi lasciare in giardino sul cemento? No, ma non adottarlo. Il cane è un animale sociale, va fatto vivere in casa, vi volete chiedere se il vostro cane è felice? Bene, se il cane da solo in giardino non è felice. Comunque ragazzi, allora, in poche parole, se vedete i cani che hanno i senza tetto e le homeless con un rapporto, un legame affettivo sano, allora meraviglioso. Quando li vedete invece i cani ammacciati, chiamate qualcuno, chiamate i vigili, chiamate la l'OIPA, chiamate la LAV, telefonate a noi a Radio 24, mandateci una mail, segnalateceli, perché si può fare in modo di toglierli a questa Bene. Gente. Allora, adesso noi abbiamo un ospite molto importante, sì. condotto delle battaglie. Sì. Voglio anticiparvi, più tardi, se c'è tempo, parliamo del motivo per cui i cani degli homeless sembrano più educati, sono più tranquilli, ah, sì, non saltano che me addosso. L'hai sempre detto. Ve lo spiego dopo, se abbiamo tempo. Intanto abbiamo il nostro ospite, non so se vuoi presentarla tu, sì, Celentano. Sono riuscita ieri a fare una chiacchiera, perché io e lei ci siamo conosciute telefonicamente ieri. Uh-huh. È una persona che io stimo molto, si chiama Susanna Chiesa. Uh-huh. Lei è la presidente di questa associazione che si chiama Freccia 45, certo. che è un'associazione contro la vivisezione. Susanna, ci sei? Ci sono, ciao a tutti. Buongiorno, grazie. Susanna. Buongiorno. Senti, ma sbaglio, noi ci siamo sentiti tempo fa per qualcosa? Sì, è vero, ecco. Infatti l'avevo. Bene. Sì, mi ricordo benissimo di voi e poi vi seguo, tra l'altro, quindi. Grande. Allora, complimenti per tutto. Grazie. Ma guarda, complimenti a te, perché conduci delle battaglie veramente importanti e sane, insomma, importanti veramente per la vita di tantissimi animali. Io penso che chiamavo Susanna perché volevo capire da lei, e poi ce lo spiegherai, come si è riuscita a far chiudere Green Hill. Perché? Perché dicevo, se sono riusciti, se Susanna con tutto uno staff, suppongo, e la gente anche che è andata lì a manifestare, sono riuscita a chiudere un posto come Green Hill, siccome spesso noi sentiamo e abbiamo gente che ci scrive, che ci dice: Madonna, io vivo vicino a un canile, vedo i cani messi in condizioni devastanti, cosa può fare la gente comune quando sa che avvicina un posto dove maltrattano i cani, piuttosto che un canile abbandonato e fatiscente? Ma intanto io sono curioso di questo. Allora, Freccia 45 ha condotto diverse battaglie, giusto Susanna? Sì, sì, l'associazione nasce in una città piuttosto piccola sul lago di Como che si chiama Lecco. Uh-huh. Quasi tutti i nostri volontari arrivano da Lecco. Ah, però vedi. Poi si è sviluppata un po' in tutto il nord Italia. 9 uh-huh. anni fa nasce. Vedi. Ci siamo caratterizzati sin da subito per una questione molto importante, uh-huh. cioè la lotta alla sperimentazione animale, la lotta ecco. alla vivisezione, e quindi quasi tutte le nostre battaglie sono canalizzate per la lotta alla sperimentazione animale. Infatti io mi ricordo un'intervista che ti avevano fatto su Current, no? Non so se vi ricordate. Ah, Current TV, sì. La Current TV era la TV fantastico. Di Al Gore, un canale sì, fantastico, che purtroppo sì. oggi non c'è più, credo sia soltanto sul web. Ma in Italia forse non c'è più, forse. No, è stato ceduto il canale, sì, Al Gore che l'aveva fondato, il fondatore uh-huh. ha deciso di cederlo. Ecco. Quindi, senti, ci elenchi un po' le battaglie che avete vinto? Allora, la nostra più grande vittoria è sicuramente la campagna contro Arlan. Che Arlan... è l'ultima di cui mi parlava, che io Arlan sì. non sapevo che cosa fosse. Dai, racconta. Allora, Arlan è una delle più grosse multinazionali del mondo. Ma che certo. produce, loro li chiamano modelli, in realtà sono animali su cui viene fatta la sperimentazione. Uh-huh. Ha sedi in tutto il mondo, è una società americana che è stata recentemente acquistata dalla Envigo. Uh-huh. E far, diciamo, organizzare delle battaglie, delle campagne contro dei colossi sostenuti dalla farmaceutica è difficilissimo. Sì, ma infatti mi sembra Davide contro Golia, anzi anche peggio. Esatto, però bisogna tanta costanza, uh-huh. studio della documentazione, quindi una preparazione giuridica e legale uh-huh. per cercare di andare ad attaccare dei punti su cui c'è sempre una falla. Uh-huh. E poi il sostegno dei volontari e di tutti per organizzare tutta una serie di picchetti per sì. far sì che prima o poi crollano. E la campagna contro Arlan è stata quella più difficile in assoluto, iniziata nel 2012 sì. quando era uscita questa notizia da parte nostra uh-huh. dell'arrivo di 104 macachi. Macachi, me lo ricordo. Sì, era sulla cos'era la KLM. Sì, esatto. Uh-huh. 104 macachi che arrivavano da Pechino uh-huh. e che erano destinati ai laboratori di vivisezione italiani. Uh-huh. Erano arrivati all'Arlan di Corezzana, che in quel momento era l'unica in Italia ad essere autorizzata a fare quarantena. Mamma perché mia. Sì, la Arlan praticamente per quell'anno, cioè per il 2012, aveva ottenuto autorizzazione dal Ministero della Salute di importare sino a 900 macachi per sperimentazione. No, vorrei dire poi a chi ci ascolta, questi macachi che sono perfettamente senzienti, ma non senzienti, hanno delle elevatissime capacità cognitive, a loro gli viene fracassata la testa, vengono bruciati, insomma, adesso potete trovare filmati, voglio dirlo, no? Perché poi uno immagina, sì. Vivisezione cos'è? Li tengono un po' nelle gabbie, li metteranno qualche prodotto su, no, vengono torturati. Sì, sì, anche perché poi ci sono naturalmente i sostenitori della ricerca con sperimentazione, addirittura sostengono che la vivisezione non esista più, ma è solamente una questione di utilizzo di termini. Ma non dicessero cazzate. Comunque Massimo Tertamanti sì. Ha spiegato più volte, so che ha lavorato con voi anche per questa battaglia e molte altre, che sì. Oramai la sperimentazione animale non ha senso per nulla, nemmeno sì. Per quanto riguarda l'aspetto farmaceutico. Quindi la gente che pensa che per guarire lui, anche se c'è una malattia grave, ci sia bisogno di torturare, di fare sperimentazione su un animale, è una cazzata, è una bufala. Semplicemente costa di più, non è sicura come invece fare sperimentazioni, per esempio con le cellule staminali, farle in laboratorio con miliardi di tecniche oramai innovative che ti danno la certezza se un farmaco funziona oppure no. Mentre l'animale col forse, loro intanto lo buttano in commercio, qualcuno si salva, cioè in realtà poi secondo le case, come fanno le case farmaceutiche, non solo i macachi sono animali da laboratorio, ma pure noi siamo persone prese sulle quali sperimentano, sulla nostra pelle. È questo che la gente non capisce, capito? Susanna è molto ben formata, secondo me. Sì, poi il dottor Massimo Tettamanti è un po' la nostra divinità, diciamo. È l'unico, secondo noi e secondo tantissimi altri volontari italiani, che innanzitutto ha dei numeri oggettivi di salvataggio di animali, perché loro sono riusciti in 20 anni di attivismo a salvare più di 18.000 animali dai laboratori, di cui 271 li abbiamo ospitati noi come Freccia 45. Perché poi si pensa sempre ai topini e ratti, ma non è vero, noi abbiamo ospitato anche capre. Scusami, Susanna, ma voi cos'è che avete? La vostra sede, perché tu dici è ospitato, dove li ospitate? Allora, noi nel tempo abbiamo aperto un rifugio che si chiama Gli Ultimi, in questo momento stiamo cercando di spostarlo, ma dipende dagli animali che si salvano, perché il dottor Tettamanti salva animali di diverse dimensioni, cioè riesce anche a salvare cavalli, per esempio. Sì. Quindi in quel caso bisogna trovare dei centri strutturati per ospitare questo genere di animali. Certo. Animali da fattoria solitamente si cerca... Prima bisogna fare un percorso con l'animale, perché sono animali che hanno subito... diversi shock, diciamo. Sì. Quindi gli animali da fattoria, gli animali grossi, cerchiamo di trovare stallo e di reintrodurli in fattorie, e naturalmente non lo utilizzino come cibo, ecco. No, certo. Mentre animali più piccoli, in particolare i roditori, avevamo creato questo rifugio, l'avevamo chiamato Gli Ultimi, perché gli ultimi il rifugio dei senza casta, perché ormai gli ultimi della catena sociale, non considerati da altri, un rifugio dove praticamente mettevamo tutti gli animali salvati, roditori, quindi si tratta non soltanto di topini o di rattini, che sono gli animali più intelligenti del mondo con cui noi abbiamo avuto modo di lavorare. Adesso li ho tenuti, le rattine, incredibili, sono in confronto ai cani, si intuisce un'intelligenza proprio completamente diversa. Senti Susanna, allora siccome volevo chiederti ancora una cosa, stai un attimo lì che facciamo una brevissima pausa e poi continuiamo con la nostra chiacchierata. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS, e in video su radio24.it e su rds.it. Sono Giovanni Minoli e lunedì 26 settembre torno con Mix 24 con Mario Sechi. Vabbè, però io l'avevo detto, eh. è Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. Di faccia a faccia, le inchieste dentro la notizia e gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema. Tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Allo? Eccoci, allora parlavamo con Susanna Chiesa, che credo sia un avvocato, tra poco magari ce lo conferma, è sì, presidentessa è dell'associazione Freccia 45, ha avuto diverse vittorie, no? Successi. Green Hill, per esempio, prima parlavamo di Harland, giusto Susanna? Harland è stata la vittoria più schiacciante, in quanto la più complicata e la più difficile, e che ci ha fatto lavorare per diverso tempo su molti fronti. E quindi ricordiamo dei Harland, questi macachi che dovevano essere sottoposti alla vivisezione, che viaggiavano dalla Cina qui. Ma la vostra vittoria in che cosa è consistita? Allora, la nostra vittoria è consistita nella revoca delle autorizzazioni di allevamento, laboratorio e quarantena. Addirittura. Cioè, sì, praticamente la Harland era l'unica società italiana a poter fare la quarantena di animali da laboratorio e aveva tutta una struttura per poterlo fare, e il fatto che non il Ministero della Salute, a seguito di un fascicolo importante che abbiamo presentato a Roma, io insieme all'avvocato Aldo Benato e soprattutto insieme al dottor Massimo Tettamanti, ha fatto sì che il Ministero non rinnovasse più le autorizzazioni a questa multinazionale. Fantastico. Harland è stata difficile, condotta su vari fronti, quindi dalla manifestazione alla lettera di protesta, all'esposto in procura. Guarda Susanna, se ci sono adesso ci racconterai qual è la vostra battaglia di adesso, sì, che state cercando, e noi se possiamo dar voce attraverso i microfoni della radio, anche io, Angelo, attraverso i social, fammelo sapere, tienici al corrente, perché sai che con noi si fonde una porta apertissima. E quindi adesso di che cosa vi state occupando? Allora, adesso ci stiamo occupando di noi nel tempo siamo riusciti ad avere una rete, siamo gli unici in Italia, una rete di volontarie alle dogane d'Europa. Grandissima. Sì. Per controllare tutti gli animali da sperimentazione che dall'estero giungono in Italia. Bellissimo. In assoluto, ma bisognerebbe fare delle riprese e metterle sui social su questa cosa qua, perché la gente non lo sa, capito? Cioè io che, e Angelo, che almeno io, adesso ti dico di me, ma credo anche per lui, che un po' siamo in questo settore perché il nostro spirito è votato a beneficio di tutti gli esseri, io in particolare di quelli animali, non lo sapevo. Sì, oddio, gli umani. No, scherzo, non è vero. Se c'è una persona in difficoltà, umana o non umana, chi c'ha compassione ce l'ha a prescindere. Esatto. Adesso poi a me piace fare le provocazioni, però non lo sapevo. E quindi queste cose, secondo me, danno anche molta speranza, perché spesso sento la gente che dice: ma queste povere bestie non si finirà mai. Invece far capire, far sapere anche alla massa, al grande pubblico, che ci sono delle vittorie, che c'è gente che è proprio lì e non molla mai, come voi per esempio, ce ne saranno tante altre, anche con immagini, potrebbe essere una divulgazione importante. Ma guarda, proprio oggi, no, dicevamo di questa citazione di questo cane che diceva: continua a scavare fino a che non avrai trovato quello che cerchi, no? E quindi i cani ci insegnano queste cose qua. Quindi dicevamo, adesso vi state occupando di? Allora, adesso è una battaglia anche questa molto molto difficile, contro il centro di ricerca Ptuit, che si trova a Verona. Sì. È un centro di ricerca che opera, è un partner commerciale di una ditta farmaceutica, così è una società americana che ha aperto questo centro di ricerca per lavorare per questa ditta farmaceutica. Nel 3 anni fa ha importato 32 cuccioli beagle dal Belgio, e quindi noi stiamo lottando da 3 anni con il più lungo presidio dell'animalismo in Italia, che è durato 3 anni esatti, cioè tutti i giorni davanti alla un presidio durato 3 anni? Sì, il più lungo della storia dell'animalismo in Italia. Fa fantastico. Senti Susanna, ma se uno vi sta ascoltando e dice voglio anch'io andare a fare, voglio essere un soldato del Freccia 45, cosa per arruolarsi, no? Che deve fare? Ci deve scrivere, guarda il sito www.freccia45.org, così si rende conto di quello che facciamo. Uh-huh. E ci scrive, sicuramente un posto glielo troviamo, perché abbiamo così tante attività in corso che servono persone. Più che donazioni, a noi serve proprio persone che facciano cose, ecco, non tanto ecco, donazioni. Ecco, questo è importante. Bene, bene, bene. Questo qui è importante, sì. Perché c'è un sacco di gente che ha voglia e non sa dove andare, quindi... No, c'è anche un sacco di gente che io sto conoscendo ultimamente, che non sa bene che cosa fare durante il giorno, no? Esatto. Perché magari non ha bisogno di lavorare, vuole fare qualcosa, annoia. Dov'è la vostra sede, scusami? Allora, noi la sede, il quartier generale, chiamiamolo così, è Lecco. Ok. Però in realtà abbiamo diversi nuclei in tutto il nord Italia. Importantissimo per la battaglia di Verona, mm-hmm, è quello veronese. Ecco. Ah, ok. Bene, Milano bene. Comunque c'è un altro nucleo e poi sparsi in giro. Le attività da fare sono tantissime, ma di diverso genere, dall'attività sui social, l'attività, uh-huh, di informazione, l'attività giornalistica, l'attività legale, l'attività di protesta, quindi ce n'è per tutti. Ok, perfetto, guarda, ti mandiamo subito un po' di persone. I nostri complimenti, Susanna, perché so davvero che cioè non è semplice, non è che tu metti un post su Facebook e hai fatto tutto, bisogna organizzare la forza lavoro, bisogna organizzare tutto, gestire le persone, coordinarle, sì, fare riunioni, sì, individuare strategie, quindi veramente tanto di cappello. Grazie. Bravi, brava Susanna. Grazie. Veramente grande rispetto a tutti voi. Grazie. Qualunque cosa siamo a disposizione. Grazie a voi per averci dato questa possibilità. Ci Ma figurati, ci mancherebbe. Ciao, dovere. Susanna. Un abbraccio, ciao Susanna, buon lavoro. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Allora, beh, che roba, che ecco, queste cose mi riempiono il cuore. Sono imprese eroiche. Sì. Sono imprese eroiche. C'è anche a me andare a fare i picchetti, sai quanto romperei i maroni io. Questo è quando l'etica diventa un valore più importante dell'economia, e questo è il punto. Siamo in una radio anche importante da questo punto di vista, perché è una radio che parla e si occupa principalmente di economia, ma è molto importante che l'economia sia assoggettata all'etica. Beh, anche per una visione a lungo termine. All'economia fa bene l'etica. Come dice il presidente dell'Uruguay, no? Quel presidente fantastico. Pepe Mujica. Come si chiama? Pepe Mujica. Fantastico. Cosa dice? Cosa dice? Adesso Come dice? Ho capito, cioè, ma lo sai meglio tu, dimmi, lo sai spiegare meglio come tu. Come dice il proverbio? Dice, come dice? Che ne so, ce ne sono tanti. Cioè, allora, avanti, citiamo Pepe Vedi, Mujica. Vedi, una mattina che non prende il latte con i figotti, cioè, citiamo, così. Come dice Pepe Mujica? Che dice? Non lo so, dice tante cose. Ex presidente, ci ricorda Peter giustamente. Regia, grazie. Ex presidente. Grazie mille, tra l'altro è uscito recentemente un suo libro, insomma. Vale la pena di ascoltarlo. Allora, visto che citiamo una cosa a caso di Pepe Mujica. Non è una cosa a caso. No, quella che sto per dire io sì, perché non è perfettamente attinente. Comunque, questo presidente illuminato dice: attenzione quando voi comprate le cose, perché non le comprate con il vostro denaro, le comprate attraverso il tempo impiegato per guadagnare quei soldi. È col vostro tempo che voi comprate le cose. Siate felici in quel tempo invece di consumarlo a lavorare per accumulare cose. Questa è una delle tante cose interessanti e meravigliose che di... Grazie grazie dice mille a tutti. Pepe, comunque, se andate su YouTube e lo mettete, ex presidente dell'Uruguay, è fantastico, c'è solamente da imparargli a memoria. Detto ciò, nel frattempo dovremmo avere con noi al telefono Francesca, che si è occupata dell'urlo di Angelo. Dopo Francesca parliamo poi dei perché i cani dei senza tetto sono così bravi. E io volevo dire, al contrario di quelli che abbiamo in famiglia, che fanno un po' di... Sì, che vengono abbandonati pur in una gabbia d'oro. No, volevo ringraziare tutti quelli che ci hanno mandato le mail riguardo ad Angelo, a questo cane che è stato torturato in Calabria, San Gineto. Noi stiamo sempre cercando il sindaco. Io ho sempre cercato il sindaco in questi giorni per potergli parlare, per poter avere un confronto con lui. Adesso intanto parliamo con Francesca Console. Sei con noi? Ci sei? Buongiorno. Ciao Francesca. Buongiorno. Allora, Francesca è quella che tra le persone che si sono rimboccate le maniche immediatamente dopo il fattaccio. Ricordiamo che Angelo è un cane che senza ribellarsi si è lasciato torturare Mamma da quattro mia. Ragazzi idioti e probabilmente quattro poco, da quattro assassini. Esatto. Quindi lei ha fondato un gruppo Facebook, giusto Francesca? Sì, una pagina Facebook. Una comunità. una comunità Facebook che si chiama L'Urlo di Angelo, giusto? Sì. Ok, ok. Raccontaci un po'. Vi parlo a nome di tutti noi volontari calabresi. Sì. Noi appena abbiamo saputo la vicenda di Angelo, abbiamo deciso finalmente di unirci, sì, quindi tutte noi associazioni, tutti noi volontari, e per la prima volta la Calabria è scesa in piazza. Sì. Il 21 luglio abbiamo fatto la nostra manifestazione proprio a San Cineto, dove abbiamo espresso senza alcuna forma di violenza, nella massima calma, il nostro ribrezzo, il nostro sdegno. Sì, sì. E poi abbiamo creato questa fantastica comunità dove abbiamo coinvolto un po' tutta Italia. In base a quello, per quello che era successo. Senti, ma siete riuscite a... perché dunque un consiglio che ci ha dato Gianni Tadolini, con cui abbiamo parlato, sì, la settimana scorsa, è, sì, che sarebbe un passo molto importante se il sindaco si costituisse parte civile. Allora, il fatto che il sindaco si costituisca parte civile, lui ha dichiarato che lo avrebbe fatto. Ah. Ha dichiarato che lo avrebbe fatto in varie trasmissioni, sempre anche trasmissioni radio locali. E come si fa a sapere se l'ha fatto o no? Non lo potremmo mai sapere fino a quando non andremo in giudizio. Stiamo aspettando tutti che finiscano le indagini preliminari e si stabilisca finalmente la prima data del processo. Allora Francesca, scusami un attimo, siccome in regia mi stanno dicendo che dobbiamo fare un attimo un break, rimani lì che riprendiamo il discorso subito dopo. Sono Gigi Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica di Gigi Telesforo. Sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Tomlinson, good morning. Ça va, vous qui nous écoutez chez vous à la maison? Bonjour Julie. Bonjour. Aus antirassistische Netzwerk Sachsen-Anhalt. 24 mattino di Alessandro Milan. Ma dove eravate finiti? Il Parlamento è aperto ogni giorno dalle 6:30, caffè, brioche e giudizi in libertà. E alle 7:20 vi leggo i giornali gratis. Alessandro Milan, il boss dell'informazione. O vi aspetto, è dal lunedì al venerdì. E siccome la carta costa, scopriremo anche l'articolo più inutile del giorno. Ma chi se ne frega? Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. E stiamo parlando con Francesca Consol, che è la persona che ha aperto questa pagina Facebook Uniti per Angelo, giusto? Si chiama così, Francesca? Sì, l'urlo, sì, di Angelo. L'urlo di Angelo, di quel cane. E l'hashtag è Uniti per Angelo. Uniti per, okay, Angelo. Cioè, ricordiamo che Angelo è quel cane che è stato maltrattato fino alla morte da quattro ragazzi. Torturato. Torturato. Fino alla morte da quattro ragazzi calabresi, San Ginetto, che si sono ripresi, che hanno ripreso tutto mentre lo facevano, hanno postato tutto su Facebook dicendo in modo molto arrogante, molto sicuro di sé, tanto non ci succederà nulla, non ci possono fare niente. E a quanto pare avevano anche ragione, perché nel senso, adesso a microfoni spenti durante la pausa, cioè, te ci raccontavi che comunque vanno in giro in paese tranquillamente, se ne vanno in discoteca, al pub, no? Che nessuno... Noi abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da persone che li incontravano magari al pub piuttosto che in discoteca, documentando, sì, tutto con foto al momento. Ecco, vedi. La comunità dell'Urlo si è ribellata, perché comunque tutta Italia e anche di gran parte dell'Europa e persino a Miami siamo arrivati con questa storia. Figurati. Si è ribellata e quindi sono partite un sacco di mail di proteste e di recensioni negative nei confronti di quei locali che avevano, tra virgolette, ospitato gli assassini. Sì. Ma abbiamo... No, che poi questa, sì, è una cosa da vedere, nel senso che a me fa piacere se questi rimangono fuori, però non credo che sia legale, sai? Cioè, non credo che si possa fare discriminazione tra uno che è anche condannato e uno che non lo è come locale pubblico, non lo so. Però esatto, effettivamente io fossi Gestore. Il gestore del locale, a me piacerebbe poter dire voi quattro che siete quattro stronzi, adesso ve ne state fuori, ve ne andate a fare... scusate. Hanno messo un bel cartello fuori dalla discoteca. Con su scritto? L'immagine di Angelo. Con scritto chi maltratta gli animali non è gradito non è gradito, è un'ottima cosa. È già una cosa. Senti, ma Francesca, io mi domandavo, le famiglie come hanno reagito? Cioè, se io fossi il genitore di uno di questi quattro debosciati, sarei la prima che la legge faccia qualcosa, prima che io farei vivere a mio figlio un lungo periodo di galera in casa, ma anche perché sarei seriamente preoccupata che se mio figlio ha avuto la forza e il coraggio di fare una roba del genere, nulla mi vieta di pensare che alla prima screzza con una fidanzata, con un compagno, agisca di conseguenza. Ma noi è questo che cerchiamo di far capire. Mm-hmm. È questo che noi vogliamo far capire, la pericolosità sociale. Sì, infatti, oggi si parla proprio di violenza sugli animali come predittiva di violenza sugli altri esseri umani, che, attenzione, è pericolosissima, va detto, però non è l'unica ragione per cui queste cose sugli animali non si devono fare. Queste cose sugli animali non si devono fare perché causano sofferenza all'animale, questa è la mia opinione. In più, voi state cercando di far capire alla gente, attenzione, perché se questi l'hanno fatto su questo cane, è facile che poi torneranno a farlo sulle fidanzate, su altre persone. Un bambino, su qualsiasi essere vivente indifeso, come era il cane, come ha dimostrato esserlo il cane quando è stato... Comunque, chiunque usa violenza contro degli esseri viventi, indifesi, che siano anziani, bambini, animali, sono persone sfigatissime, oltre che pericolose, che hanno la sindrome del pene piccolo e sono veramente degli sfigati, codardi, che non hanno coraggio di far niente, si devono rifare sulle persone in difficoltà e più deboli di loro. Quindi qualunque azione di questo senso fatta da quattro imbecilli pensando di farsi fighi, hanno dimostrato pubblicamente di essere quattro sfigati, ma pesantemente sfigati, e questo che si sappia in giro, perché bisognerebbe dire anche questo, capito? Perché a volte questa immagine qui su un adolescente spocchioso fa più, dà più fastidio che magari farsi un po' di mesi di carcere o di comunità riabilitativa. Ma io vorrei ringraziarvi, perché comunque non so se voi vi ricordate, all'inizio ci avete mandato anche voi il vostro urlo, sia tu Angelo che tu Rosita, e noi l'abbiamo pubblicato in pagina. Fantastico. E io, credetemi, abbiamo un seguito, cioè gente meravigliosa. Meno male. E abbiamo raccolto oltre 2600 fotografie di queste persone che si facevano fotografare con il cartello "Anche io urlo, uniti per Angelo". Bene. Ora abbiamo lanciato un'altra iniziativa che consiste nell'appendere, diciamo, questa locandina in tutti i posti possibili e immaginabili, e poi mandarci la foto della locandina, non so, dietro la macchina, piuttosto che nella bacheca dell'università. Stiamo cercando di mantenere alta l'attenzione. Benissimo. Brava, guarda, cercate di resistere il più possibile finché non succede qualcosa di significativo. Ma vogliamo arrivare a un punto. Cioè, Angelo deve essere lo spunto affinché l'Italia si renda conto che le sue leggi fanno abbastanza schifo. E questa gente deve andare in galera. Certo. La pena deve essere inasprita, devono andare in galera. Io sono assolutamente d'accordo su questo. Dopo la galera si passa alla riabilitazione. E voglio, tra l'altro, lontano dai cani, per l'amor di Dio, perché è come se io dicessi a un pedofilo lo riabilito e lo mando all'asilo, no? Ah, beh certo. La galera prima di tutto, e poi li reintegriamo, per l'amor di Dio. Ma la galera la devono fare. Devo dire, tra l'altro, che l'Italia, ecco, prima dicevamo delle leggi dell'Italia, devo spezzare una lancia, perché è uno dei paesi al mondo in cui le leggi sui diritti degli animali sono più severe. Non è ancora sufficiente. Devono metterle, però sono sufficiente. Severe, però ma proprio per questo può essere una battaglia che può essere vinta. Va bene, grazie Francesca di averci parlato dell'urlo. Andate su Facebook, chi ci sta ascoltando, aderite a questa pagina, mettete il mi piace e contribuite come potete. L'urlo di Angelo. Francesca, qualunque cosa, siamo a disposizione. Grazie tante, grazie. Ciao, grazie giornata, a te per quello che fai. Ciao, buona giornata. Ciao. Ebbene, ci mandano pochi minuti. Abbiamo promesso ai nostri radioascoltatori che avremmo svelato il segreto dei cani, dei senza tetto, quelli senza tetto che hanno un bel quelli legame. Sani. Perché io quando andavo in giro ti chiedevo, dico, ok, aspetta, com'è possibile che c'hanno dei cani liberi, senza guinzaglio, senza collare, senza niente, sono lì che dormono, gli passano davanti tutte le persone che camminano con cagnolini, che li abbaiano e non fanno una piega. Sono state fatte degli studi, cani dei barboni senza tetto, anche dei cosiddetti pancabestia italiani, no? Spesso sono molto più bravi, ma sono molto più bravi perché riescono a fare più esperienze. esperienza, sono più stimolati cognitivamente, soddisfano maggiormente i loro bisogni. Cioè, un cane chiuso in casa, io mi ricordo una scena, ero a Bologna, sotto i portici, passavano due ragazzi che vivevano per strada con il loro pitbull senza guinzaglio, è uscito dal portone, sotto questi portici, una signora con il suo cagnolino, con la pettorina, che ha abbaiato immediatamente verso il pitbull. Il pitbull ha fatto una bella curva allargandosi ed è andato avanti ignorando il cagnolino. E tu dici, com'è possibile? Ebbene, perché il cagnolino che viveva in casa aveva accumulato stress, frustrazione, doveva uscire maggiormente, mentre i cani che sono per strada e possono andare in giro e annusare gli altri cani, sono spesso liberi dal guinzaglio, ovviamente sono molto più calmi, molto più tranquilli, perché i loro bisogni sono tutti soddisfatti. Bene, vedi, Angelo è sempre in giro per strada, tranquillo, passeggia, va in giro e quindi tutti i suoi bisogni sono soddisfatti. E con questo, buona domenica a tutti. Chiedimi se sono felice, @radio24.it. Ci vediamo domenica prossima, caro Angelo. A domenica prossima. Ciao.